La crescita delle connessioni a banda larga in tutto il mondo ha favorito la pratica di scambio file, a volte illegali, a volte no, poi vedremo, sulle reti peer-to-peer. Il fenomeno sembra non smettere, insomma. Anzi, nonostante l'azione delle major discografiche e cinematografiche, il fenomeno non accenna a diminuire. Allora, su internet, e quindi sulle reti, sui principali software di scambio file, si trovano serie come Lost o Desperate Housewife, prima in rete che al cinema. Ne parliamo a Digitalk. Sigla. Benvenuti alla seconda puntata di Digitalk, il programma che parla dell'universo digitale, lo fa in uno studio, sempre con quattro ospiti, sempre alle 23 ogni giorno, sul canale 817 di Sky, quindi su ETV. Oggi parliamo di peer-to-peer e pirateria, e lo facciamo con i maggiori esponenti, insomma, del settore, ovviamente non quello dei pirati, però quello di chi, insomma, si occupa e studia e analizza il fenomeno del scambio file e di tutto di connessi relativi al diritto d'autore, alla proprietà intellettuale, eccetera. E oggi lo facciamo insieme a Sara Beddini, che è responsabile dell'ufficio studi dell'Unione Italiana Editoria Audiovisiva, quindi Univideo, insieme al dottor Luca Vespignani, che è segretario generale della Federazione dell'Industria Musicale Italiana, FIMI, anzi no, è segretario, mi diceva, dell'FPM, no? Perché la FIMI comunque c'entra, ma lei è segretario dell'FPM, quindi bisogna passare ora ad Anna Masera, che è una nota giornalista della Stampa, e a Morgan Peyrot, che è della segreteria generale della Federazione Antipirateria Audiovisiva. Ecco, i fatturati delle case discografiche, insomma, sono un po' appesantiti, per così dire, dal peso dello scambio file, ma allo stesso tempo sembra che, grazie a nuove offerte, il download della musica legale stia aumentando. E poi non si parla solo di musica, si parla anche di contenuti audiovisivi e quindi anche di video, di film, eccetera. Ecco, ma è vero che è vero, dottor Vespignani, che sta aumentando il download di musica legale da internet? Sì, il download legale sicuramente sta aumentando, perché è aumentata molto l'offerta, è aumentata sia in termini di convenienza ma anche proprio di disponibilità di catalogo. Diciamo che questo non ha fatto diminuire il fenomeno file sharing, ha semplicemente fermato un trend, che era un trend di forte crescita, il che è già un successo, visti i ritmi di crescita del peer-to-peer dei file disponibili in rete degli ultimi anni. Diciamo che l'offerta legale e le azioni legali, sia di natura civile che penale, che ci sono state, non bastano. Non bastano se manca una politica di incentivo per i contenuti e non soltanto per i contenitori, che è quella che è stata fatta fino a questo momento, e se non esiste un panorama legislativo finalmente chiaro ed efficace, che non viene modificato ogni sei mesi e che crea soltanto confusione sia negli operatori del settore ma anche nei consumatori. Certo. Sara Beddini, cosa ne pensa? Ma noi, l'Univideo, l'Unione Italiana Editoria Audiovisiva, per il momento è un'industria, diciamo, che non ha sperimentato il downloading legale di contenuti audiovisivi. Questo perché noi vogliamo essere cautelati. Noi siamo audiovisivo, è diverso dalla musica, un film è un prodotto diverso da una canzone. Giusto per dare qualche dato, diciamo che l'industria audiovisiva conta circa 20.000 occupati, quindi cominciare a distribuire prodotti audiovisivi tramite la rete implicherebbe la mancanza poi di tutta una serie di soggetti, tipo i replicatori e i produttori di box. Replicatori? I replicatori, sì. Cosa sono i replicatori? Scusate, abbiamo un pubblico abbastanza avanzato, però insomma è bene sempre ogni tanto. Replicatori sono quelli che appunto replicano l'opera audiovisiva e poi dal replicatore si passa al distributore che la distribuisce. Ok, perfetto. E questa, diciamo, è una delle prime cose. Secondariamente, la qualità della visione è sicuramente diversa, la qualità della visione di un film scaricato da internet rispetto alla qualità di un DVD e rispetto a quello che all'offerta che ti può dare l'home theater e tutta una serie di altri hardware che lì veramente al cinema portato in casa. Ho capito. È diverso. Ho capito. A proposito delle opportunità e della cambiamento di tendenza, forse, in futuro, ci auspichiamo, ci auspicano alcuni. La FAPAV cosa ne pensa? La FAPAV ritiene che sia sempre più importante tutelare, prescindere dal prodotto audiovisivo, visto che siamo la federazione contro la pirateria audiovisiva, ma tutelare in generale tutto il comparto delle opere dell'ingegno e quindi il comparto della proprietà intellettuale. Se pensiamo che il mercato del diritto d'autore occupa sostanzialmente quasi il 4% del prodotto interno lordo del nostro paese, vediamo che in termini economici ha un impatto molto forte questo. Ecco, allora, certamente la situazione si sta più o meno prospettando in questo modo. Cioè, certamente ci sono un mucchio di interessi in gioco, ma allo stesso tempo ci sono regole a volte, credo che conveniate tutti su questo, forse no, ecco, vorrei capire questo, regole un po' datate. Cioè, forse bisogna cambiarle queste regole, forse sono cambiate troppe volte. Sono state cambiate troppe volte. La vicenda del decreto urbano credo che sia nota a tutti, nato per tutelare in maniera più efficace il diritto d'autore, lo stava quasi totalmente affossando. Quindi credo che si debba arrivare a una definizione di regole certe, precise, che sicuramente tengano conto delle esigenze dei consumatori, questo è ovvio, ma che in qualche maniera tengano conto anche della necessità di remunerare gli autori e i produttori, che comunque, come diceva anche la dottoressa Bedini, danno impiego, creano posti di lavoro e comunque generano economia. Quindi sicuramente dal decreto Urbani comunque alle vostre opinioni sono tutte più o meno insomma interessanti, nel senso che stanno descrivendo una realtà, ma allo stesso tempo in qualche modo rappresentate, dovete consentirmelo insomma di dirlo, ma rappresentate anche gli interessi di un mercato che certamente produce quei contenuti che poi utilizzano e di cui fruiscono insomma gli utenti, per cui cioè. Però volevo chiedere invece a Dana Masera, che è una giornalista molto attenta su queste questioni di pirati o pionieri, come abbiamo intitolato la puntata. Allora, abbiamo chiamata pionieri anche perché proprio c'eri tu, no, in questa puntata. Allora, perché forse pionieri? Quali sono le regole? Bisogna cambiarle? È vero? È giusto quello che hanno detto? Cosa pensi? Vorrei fare una premessa. Io sono qui, mi sembra, visto le persone sedute qui in sala, sono qui l'unica a rappresentare i consumatori, quindi faccio un po' la parte del diavolo e mi metto dalla parte del consumatore e mi metto nei loro panni, nei panni dei consumatori che scaricano musica. Premetto che non invito nessuno a violare le leggi, penso che le leggi vadano rispettate e che la pirateria è legale, è ovvio, però è anche vero che quando si vede un fenomeno così vasto come questo, è una dimensione di un fenomeno che pone una domanda, cioè io mi chiedo come mai così tante persone violano la legge e piratano la musica, come mai si scaricano la musica così tanti cittadini, non sono solo ragazzini, le dimensioni del fenomeno le conoscete tutti, è evidente che c'è qualcosa che non va, allora o è la legge che non funziona, che non va bene così com'è e quindi va, cioè è lecito chiedersi se è ancora attuale o se va cambiata e magari andrebbe cambiata. Oppure ci sono nuovi modelli di business possibili e quindi forse internet ha messo in gioco e ha messo in discussione un sistema di business che non funziona più, perché disintermediando l'accesso alla conoscenza ha messo in gioco tutto, non soltanto disintermediando significa anche non solo mediando attraverso delle major, non loro necessariamente, come dico, la linea distributiva per dire, ma anche la negoziazione dei diritti in qualche modo, quindi ad esempio la SIAE forse secondo potrebbe essere vecchia, potrebbe essere da cambiare o come minimo da cambiare, cioè le nuove licenze di diritto d'autore più flessibili offerte da Creative Commons, che è un sistema di diritto d'autore più flessibile, sono un esempio di moderno di diritto d'autore dell'era di internet, dell'era digitale. Cosa ne pensa Vespignani delle Creative Commons? Ma penso che si stia parlando molto di qualcosa che in realtà non è assolutamente nuovo, mi spiego meglio. Di fatto, nella sostanza, le Creative Commons in qualche maniera esistono già, perché oggi la legge sul diritto d'autore italiana consente all'autore e al produttore, se l'autore ha deciso di firmare un contratto con un produttore, di distribuire come meglio crede quell'opera. Io autore che compongo una canzone non necessariamente devo far pagare 10, 15 o 20 euro un CD, posso anche liberamente decidere di distribuirla gratuitamente su qualsiasi sistema di file sharing o ha delle condizioni molto particolari, non commercializzandola, così via. Quindi di fatto in qualche maniera esistono già. Beh, non so, io dovrei semplicemente moderare la discussione, però ecco, effettivamente la CIA va oltre, no? Nel senso che se io adesso qua riproduco il CD di una musica che ho suonato quando ero piccolo, devo comunque pagare i diritti per avere un registratore che... Specifico giusto. Che però con la SIAE non abbiamo nulla no, a che fare. Ci mancherebbe. No, nel voglio senso solo... che non posso rispondere ovviamente a questo. No, è chiaro, però ecco, il problema è chiedere, forse... Il problema è chiedere il permesso prima, anziché darlo e poi semmai ritirarlo, cioè... faccio un esempio diverso dalla musica adesso. Voi sapete tutti che Google, il motore di ricerca di internet, sta rendendo disponibili su internet tutti i libri del mondo con Google Print, un programma che digitalizza tutti i libri gratuitamente e li mette a disposizione del pubblico. L'associazione che rappresenta un po' la CIA americana degli autori ha fatto causa a Google per questa cosa, dicendo no, devi chiederci prima il permesso, chiedere il copyright, ottenere il copyright e il permesso di pubblicazione e poi puoi pubblicare su internet. Google risponde, ma scusate, ma quando uno va in biblioteca a leggersi un libro non è che chiede il permesso prima di leggerlo, lo legge perché la biblioteca, l'accesso alla conoscenza è libera. Poi, se uno vuole comprare il libro, vuole possederlo rilegato, lo compra e Google rende possibile l'acquisto via internet del libro digitalizzato, ma se uno vuole soltanto consultarlo su internet deve essere gratuito e deve essere possibile, cioè l'accesso alla conoscenza è questo. Sì, tra l'altro sabato quello che sta arrivando, avremo una puntata con il ministro in cui non so già se questo o quello dopo, comunque parleremo proprio di questo, cioè lui vuole, è stato recente la notizia, vuole rendere disponibili i libri a tutti eccetera, e insomma ci sta provando in qualche modo, però cosa ne pensa? Ritengo che abbiamo toccato un punto fondamentale e centrale del problema internet, che è quello della smaterializzazione dell'opera. Cioè internet ha permesso di smaterializzare le opere coperte dal diritto d'autore e quindi, creandone una copia digitale, poter fare con quella copia digitale qualunque cosa. È giusto l'esempio che faceva Masera sul libro, però se io vado in libreria, il libro ce l'ho materialmente in mano, quindi lo posso leggere solo una volta o tutte le volte che vado in biblioteca. Se io lo prendo digitalmente il libro, io lo posso riprodurre. Allora è qui che ci dobbiamo abituare a parlare di DRM, cioè di gestione digitale dei diritti sulle opere. Questo è fondamentale, perché se l'opera è smaterializzata, con la gestione digitale dei diritti noi possiamo stabilire quante volte il libro che vuole mettere online Google può essere letto. Può essere letto una volta sola e quindi non si possono fare delle copie. E allora a questo punto il problema della pirateria non si pone più. Ma io credo che comunque bisognerebbe prima fare uno sforzo per far capire all'utente che scaricare illegalmente è comunque un reato. Cioè a me sembra che anche dal punto di vista dei film, dello scaricare, ci sia una cultura proprio di illegalità. Quindi prima di aprirsi a questi meccanismi di downloading legale, bisogna prima, secondo me, proprio far capire all'utente che è illegale, però primo, e secondo che la qualità è molto più bassa, cioè guardare un film, uno è tutto contento perché si scarica il film che è adesso nelle sale, però lo guardi e si vedono le teste delle persone davanti. Sicuramente è un argomento interessante per convincere i giovani, o meno giovani insomma, a non scaricare, però non è sempre così. Ecco, ecco, la politica della paura non funziona. Ma cioè, noi la dobbiamo politica fare della paura. Cultura in Italia, non è la politica con gli spot della paura. Che vengono fatti nei cinema, dove si quello. Dice... La pirateria è un reato e sembra di essere dei terroristi, cioè io certo. Mi sento già in colpa ancora infatti, prima di sedermi nel cinema. Ma infatti secondo me è sbagliato continuare a seguire quella linea di direzione, quello che bisogna dire è se tu ti scarichi un film e te lo guardi e fa schifo, l'audio fa schifo, la qualità della visione fa schifo, allora ti conviene comprarlo e esatto. Forse non lo paghi molto di più, perché questo è... Ecco, mi permetto di dire, però certamente una linea di questo tipo è certamente una strada da percorrere, forse effettivamente, oggettivamente, cerco di essere oggettivo, il mio ruolo... In questo momento forse la qualità era un po' più bassa, ma tra poco forse magari non lo sarà più, per cui la sensibilizzazione verso un rapporto maturo nei confronti dell'acquisto corretto dei diritti, avere un po' più di rispetto nei confronti della proprietà intellettuale, magari non passa attraverso la qualità. Ecco, questo indubbiamente, perché... senza giustificare chi scarica illegalmente con... Certamente, infatti io credo che il problema sia capire dove sta il filo sottile che divide insomma il legale dall'illegale. Esatto. E siamo qua per capirlo. Col panorama giovanile la linea dura non ha mai pagato, no? Però paga fare un discorso di qualità piuttosto che di quantità. Noi abbiamo fatto come FAPAV e come FPM dei corsi nelle scuole e a domande molto semplici come quanti brani hai sul tuo computer, 3.000, 4.000, sì. 5.000, quanti ne hai ascoltati? Nessuna risposta. Quale ti è piaciuto? Allora, nessuna risposta. Allora questo vuol dire che è collezionismo selvaggio, puro e non qualità, sia per la musica che per i film. Ecco, a proposito di numeri, con noi abbiamo Francesca che naviga in continuazione, a casa hanno visto fitti collegati a quello di cui stavamo parlando, e a Francesca di solito chiediamo dei dati, perché mentre naviga cerca sempre di raccogliere dei numeri di cui magari poi parleremo. Ecco, tu Francesca hai qualcosa di interessante, hai già trovato? Certo, abbiamo qualche dato sulla diffusione dello scambio dei file. Perfetto, allora tra qualche minuto te lo chiedo, noi ci vediamo tra poco. Ecco, bentornati a Digitalk, oggi si parla di pirateria, peer-to-peer, pirati o pionieri. Nel frattempo però Francesca ci ha trovato qualcosa di interessante, sembra, no? Sì Marco, pensa, abbiamo come file musicali l'11% del tutto il complessivo traffico su internet. Per quanto riguarda invece i video, superano il 61% del traffico complessivo e il rimanente si tratta sul 27%, che sono programmi o di altro genere. Cavolo. Inoltre abbiamo che, secondo Cash Logic, la battaglia contro Napster e Kazaa ha favorito il circuito che utilizza il protocollo BitTorrent, mm-hmm. che copre il 30% Ho del capito. Traffico. Insomma, dati fanno paura, no? Sono, cioè, 61% dell'utilizzo della banda è dovuto a questo download, che poi tra l'altro nel caso della musica ancora, ma nel caso dei movies non c'è poca offerta, per cui certamente la maggior parte pirati, ma perché ci sono i pirati? Perché si pirateggia la musica? Come mai? Beh, la risposta direi più diretta, più semplice, è che la musica costa troppo. I CD, chiedete ai ragazzi che comprano la musica, un conto è comprarsi un file MP3 che costa 99 centesimi, un conto è comprarsi un CD che costa 30 euro. È tanto 30 euro per un CD, poi magari ti ascolti solo tre brani di quel disco, perché in realtà ti interessano solo quei tre brani. Il modello di business del CD che compri nei negozi è finito e l'hanno capito le case discografiche, che stanno finalmente adottando il peer-to-peer legale vendendo i brani. Però anche i brani non basta più adesso questa cosa, perché si sono resi conto che vendere il peer-to-peer legale via internet rende, e vogliono alzare i prezzi anche lì, per cui lo stesso Steve Jobs adesso all'Apple Expo ha dichiarato, Steve Jobs è il capo della Apple che produce l'iPod e quindi che sono quei lettori di musica digitale con i file appunto peer-to-peer scambiati via internet, i file che gli iPod su iTunes venivano venduti a 99 centesimi, le case discografiche li vogliono vendere a 1,50 euro adesso. Steve Jobs dice no, è troppo alto il prezzo, allora lo dice persino a lui, che mi sembra un pirata. Ecco, c'è tra l'altro un modello che si chiama MagnaTune, non so se ne avete sentito parlare negli Stati Uniti, dove c'è un certo numero, ne ha sentito parlare lei, però? No. Dove c'è un nuovo modello di scambio, di business. Dove si riesce a gestire diversamente il... Perché i modelli di business possibili sono anche diversi, cioè varrebbe la pena provarli prima di criticarli e considerarli impossibili. Cioè lo scaricare la musica gratis può avere un senso, rendere possibile la musica gratis in streaming per invogliare poi il consumatore eventualmente a comprarla è un sistema che sta funzionando molto bene. Che è quello di MagnaTunes. Che è questo di MagnaTunes. Ma ce ne sono altri simili, c'è una pop star cinese che sta diventando milionaria regalando la musica gratis su internet. Uno dice, come fa a diventare milionaria? Perché regala la musica gratis su internet, ha un accesso a un audience di 1 miliardo di persone in Cina, ha venduto milioni di brani, perché alla fine i suoi brani vengono venduti invece sui cellulari. E quindi il suo sito internet è gratuito, viene ascoltato in streaming su internet, poi chi vuole si scarica il brano sul cellulare. Vespignani, cosa ne pensa di questi modelli di business alternativi? Sì, torno un attimo a Apple. Con tutto il rispetto per Steve Jobs e per l'iPod, che è un prodotto fantastico che ho anch'io, però voglio dire, Steve Jobs anche se era Bendini ne ha uno al collo, vende lo stesso prodotto a 250 euro quando un lettore di pari dimensioni grosso modo costa un decimo. Certo. Quindi voglio dire, non è forse la persona più indicata per fare evangelizzare le case discografiche sul prodotto prezzo. Però è anche colui che grazie al software iTunes insomma un po' ha aiutato. Infatti, con tutto rispetto, anzi, l'esplosione della musica, della vendita di musica legale online è avvenuta soprattutto grazie a iTunes. Detto questo, ma ha assolutamente ragione Anna Masera, ci si deve muovere verso nuove forme di business, ma è quello che stanno facendo le case discografiche. In fin di conti oggi il repertorio disponibile online è vastissimo, ci sono più di 1 milione di brani disponibili a catalogo a prezzi al massimo di 99 centesimi, ecco, molto qui spesso il catalogo è ancora più basso. Costano un po' di più. Beh, non ancora, questo l'ha detto Steve Jobs, ma i prezzi sono ancora 99 centesimi oggi. La musica sul cellulare. I profitti nel mondo digitale scendono in tutti i settori e non si può pensare che le case discografiche non rinuncino poi ai profitti. No, però teniamo conto, la disintermediazione significa un po' meno profitti, teniamo conto che oggi meno costi anche. Sì, sicuramente, meno costi, stanno tagliando, meno, però si sta tagliando ovunque nella discografia. Teniamo anche conto di una cosa, che è vero che la crescita è esponenziale, però oggi la musica digitale copre forse l'1, massimo 2% del mercato, quindi per pensare a una politica di riduzione grossa dei costi bisogna aspettare che questo mercato diventi un pochino più però ampio. Abbiamo visto che questo mercato potenzialmente oggi, sì è vero, non è gratis, sì. Però siamo al 61% solo di utilizzo della banda. E poi se il mercato è così piccolo, perché sono tutti così preoccupati? Non capisco, cioè c'è una contraddizione in termini, le case discografiche sono preoccupatissime per un mercato che è soltanto l'1%. No, cioè, 1% è il digitale, ma il file sharing illegale impatta su tutto, impatta sia sulla vendita dei supporti fisici che sulla vendita dei file digitali. Quindi il 6% degli americani, infatti le stavo dando la parola, hanno un iPod e quindi quello che lei ha al collo. Certo, ma infatti secondo me la musica è molto più portata come settore a sviluppare delle nuove forme di business anche sulla rete. L'editoria audiovisiva, proprio perché si chiama editoria audiovisiva, presenta dei prodotti editoriali che hanno dei contributi extra, come ad esempio la riedizione digitale del Gattopardo. È una cosa diversa. Io penso che anche quello che dovrebbe fare la FAPAV sia adottare delle azioni che, contro la pirateria, che siano differenziate fra musica e DVD, film e un video. Quello che finora non so adesso cosa sia stato fatto, ma credo che... È differenziata dalla musica proprio per il fatto che è FAPAV e non è FPM, quindi ci occupiamo di comparti completamente diversi. Certo, quindi... è che comunque l'offerta è un po' ridotta, voglio dire. Cioè, stiamo dicendo cose diverse, siamo tutti d'accordo ma stiamo dicendo cose diverse, è vero, no? Per cui il mercato è piccolo, no, il mercato non è così piccolo, però poi non costa molto, costa molto. Beh, ci sono altre forme di pirateria audiovisiva rispetto a quella estremamente importante che è digitale per la musica, perché scambiare e scaricare un brano musicale è più semplice e più rapido che scambiare un film. Però con la banda larga questo divario sta diminuendo. Sì, sta diminuendo. Il 61% della banda è occupata da download di movies. Sì, ma ci sono altre forme di pirateria audiovisiva che sono altrettanto importanti e dannose. La pirateria audiovisiva, ad esempio, nei cinema, gente che registra il film al cinema. Beh no, nella maggior parte dei casi parte da lì, però quello è solo il produttore, il patto, no? Cioè il pirata produttore, il pioniere pirata produttore. Guardo sempre Anna quando dico pioniere perché lo associo. Beh, la maggior parte delle copie che girano su internet provengono da lì comunque. Provengono da lì, infatti c'è molto controllo nelle sale cinematografiche, eccetera. Però dico... Comunque sarebbe anche difficile poi pensare ad una ripartizione dei guadagni di di questo download legale. Ecco, ma tra l'altro i pirati, noi siamo in Italia, stiamo parlando, tra l'altro, di una televisione di illuminazione europea, perché va in tutta Europa, presto ci organizzeremo per far parlare voi in inglese, però ecco, i pirati però in Italia ci sono tantissimi, cioè in senso i pirati e perlomeno quei produttori lì, quelli del cinema, perché arrivano tutti dall'Asia, dall'Est, cioè i film forse partono da là. Noi li vediamo con l'audio in italiano perché in Italia c'è quello che va a registrare. Quindi in Italia sono pochi poi i pirati alla fine, a meno che, e qui c'è un altro grande interrogativo, il pirata, ecco che Reggio Urbani dice, cioè il pirata chi è? È quello che produce ma è anche un po' quello che distribuisce. Quindi, attenzione, non confondiamo le due cose perché sono due fenomeni molto diversi, cioè la pirateria industriale, cioè quella che porta al CD masterizzato sulla coperta nella strada, questa è una cosa molto diversa. È molto pericolosa, nel senso che sappiamo tutti che il 90% di quei CD da Caltanissetta fino a Sondrio vengono prodotti a Napoli o in campagna in laboratori clandestini industriali controllati dal crimine organizzato. Per cui è un fenomeno molto diverso dalla pirateria domestica, digitale, chiamiamola come vogliamo. Anche il ministro Urbani la pensa così. Un po' dopo all'inizio aveva messo tutti sullo stesso piano. Sì, poi non arrivo dove arriva il ministro Urbani. Io dico che forse un minimo di tutela ci vuole, però... Perfetto. Il concetto è quello comunque. Ecco, ma se io volessi scaricare sul mio cellulare un film di prima visione pagando, c'è modo di farlo? No, per il momento non c'è ancora. Sul cellulare no, al momento l'unica possibilità che c'è, la la più importante e più famosa è lo streaming che permette Alice in televisione. Con contenuti dedicati, sicuramente, ottimo livello, fatture. Però, si sta acquistando una library di titoli perché ovviamente l'offerta è partita da relativamente poco tempo. E non è detto che si risparmi poi alla fine, perché molti si lamentano dei prezzi della musica, dei DVD, però la banda larga comunque in Italia ha dei prezzi elevati in confronto agli altri paesi europei. Beh, però dipende anche da l'utilizzo che se ne fa, perché è vero che in sala si vede meglio, però se io voglio guardarlo in treno o durante la sala, in sala d'aspetto dal dentista è diverso. Ecco, però Anna, tu dicevi sì, costa poco eccetera, però cioè costa troppo, scusami, ma manca anche l'offerta, no? E poi volevi dire qualcos'altro, perché ti vedo un po' arrabbiata. Arrabbiata non è il caso, sembrava, no, insomma. Però c'è un altro tipo di utilizzo del peer-to-peer di cui non abbiamo parlato, ed è un sistema che permette ai ragazzi o agli artisti eventualmente di creare contenuti originali utilizzando campionature di musica di cui di solito si ha bisogno del diritto d'autore. Allora, è per questo che è nato Creative Commons, perché è un tipo di copyright flessibile che permette di fare queste campionature e di creare musica e di piratare quindi liberamente la musica, scambiandosela, e si dice mashing in inglese, insomma prendendo dei brani di un pezzo e brani di un altro pezzo senza chiedere all'autore, e riformulando contenuti originali e rimettendo sul mercato nuovi contenuti originali fatti in questo modo. E attualmente questa cosa è illegale in tutto il mondo, cioè non si può fare. Questo tipo di pirateria, io non la considero pirateria, allora pirati o pionieri è il nome della trasmissione, questi sono pionieri, sono artisti che fanno musica e la fanno, e in questo momento considerati pirati, ma non sono pirati secondo me. Sono pionieri Vespignani? No, non mi sembra un argomento così importante, nel senso che si rischia di scambiare una pagliuzza per una trave, nel senso che permettere di campionare piccole parti di un brano si rischia di legittimare un sistema che affossa totalmente un'industria. No, ecco. Ci vogliono delle regole nuove, perché cioè abbiamo una legge del copyright che difende soltanto le grandi case discografiche e le grandi major, non difende i piccoli artisti, non difende i piccoli, non difende la creatività, non difende gli utenti. Quel piccolo quando diventa grande viene subito affossata, la sua opera viene subito affossata da peer-to-peer, quindi rimane piccolo, vogliamo questo? No, sto dicendo che le leggi, se dobbiamo rifare una legge che faccia contenti tutti, vanno prese in considerazione anche i diritti della maggioranza del mondo, che sono i cittadini consumatori. Non si possono prendere in considerazione soltanto le federazioni di categoria che rappresentano l'industria. È francamente di parte. Però siamo quasi per chiudere. Ecco, che vorrei che si facesse un attimo di chiarezza. La legge non tutela le associazioni di categoria, non tutela l'industria della musica, non tutela l'industria del cinema. La legge tutela la creatività, la proprietà intellettuale e la possibilità di remunerare la creatività per far sì che possa essere creata ancora nuove cose, nuovi contenuti da un punto di vista culturale. I creativi che fanno musica piratando la musica degli altri per inventarne di nuova, cosa non c'è sono? Bisogno di fare musica nuova prendendo... Per voi cosa sono? Sto cercando di dare una risposta. Sono creativi? Sono creativi. Autori? Autori, e non è detto che ma si possa... Diritti. No, hanno tutti i diritti che hanno normalmente tutti gli autori e tutti gli artisti, non è necessariamente vero che possono andare in galera, ma non solo dappertutto, negli Stati Uniti hanno questo, cioè questa è un po' un'esagerazione. Io mi metto a pubblicare su un sito web uno studio sul file sharing prendendo un pezzo del suo articolo, un pezzo dell'articolo di un altro giornalista, un pezzo di un altro giornalista. I posso blogger farlo? Fanno così ma citano la fonte. Posso farlo? Ci sono già fenomeni di questo tipo. Anna è felice. Posso farlo con i suoi articoli? Mi piacerebbe tanto farvi vedere un bellissimo brano, un filmato che girava su internet di Blair e Bush che si cantavano una canzone d'amore, ed era una canzone di Michael Jackson cantata in duetto con le loro due voci, Michael Jackson e Paul McCartney che cantano. In realtà sono loro che parlano. È piratato il filmato, perché è un filmato piratato dalla conferenza stampa che hanno tenuto, ed è della CBS. È piratata la canzone, non hanno chiesto i diritti a nessuno, eppure è un contenuto originale di satira politica che gira su internet, e in questo momento è illegale. Se la mostri sei illegale tu, se la crei sei illegale. Questo tipo di contenuto non è salvaguardato dalle nostre leggi sul copyright, e io volevo spendere una parola su questo, perché però fino adesso abbiamo parlato... Ma perché abbiamo finito il tempo. Ah, abbiamo finito il tempo, però abbiamo il tempo per concludere. No, perché fino adesso abbiamo parlato dei ragazzi che ascoltano la musica e se la scaricano gratis da internet, ed è un tipo di pirateria, ma c'è anche un altro tipo di pirateria fatta da, siccome parliamo di diritti d'autore e di salvaguardare i diritti d'autore, da autori che in questo momento non hanno diritto di esistere. Ma non è neanche positivo che chiunque voglia filmare qualsiasi cosa, anche comunque pericolosa per l'utente finale, che non si sa chi è, se è un ragazzino o un bambino, possa metterlo su internet e tutti lo possano avere. Cioè, ci vuole anche un certo controllo, specialmente per l'audiovisivo. Tu vai lì, digiti un titolo, non sai cosa scarichi. Quando lo allora, apri... è chiaro, ci vuole controllo. Questo, da questa discussione, che per purtroppo a causa del tempo non siamo riusciti a portare sino in fondo, lo meritava, probabilmente per questo magari faremo un'altra puntata dedicata, perché sono emerse tante cose interessanti, forse inaspettate, no? Perché non ci aspettavamo o di litigare o di dire solo cose contrastanti. In realtà abbiamo scoperto che, insomma, ci sono dei punti chiave, chiari. Se qualche legislatore magari ha guardato questa puntata, può essere un po' aiutato, no? Ho scoperto per esempio che esistono degli strani personaggi che si chiamano pionieri, li abbiamo chiamati noi così, però forse non li ha. Bene, allora io intanto vi saluto, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Sara Beddini, ringrazio Luca Vespignani, Anna Masera e Morgan Peirò. Noi ci vediamo come ogni mercoledì, anzi come ogni giorno, insomma, alle ore 23, sempre su ETV, al canale 817 di Sky. La puntata di domani sarà sul digitale terrestre, sempre domani alle 23, e questa puntata, come tutte, andrà in replica domani mattina, quindi ogni mattina alle 8:25. Vi saluto, alla prossima, arrivederci.